Allora, è commenso dolore che abbassa la nostra sigla, che è Free Speech dei Metallica, pezzo di metal potentissimo. Buonasera a tutti e tutte, Free Speech appunto, di giornalismo non solo. Siamo al 19 di luglio, sono le 19.04, sigla potentissima, bellissima. Poi mi sa che ogni ospite dovremmo tipo lasciargliela in un MP3 a parte, fantasmagorica. Va bene, allora, fa caldissimo Milano, siamo nella settimana più calda dell'universo, probabilmente della storia dell'umanità, fino all'anno prossimo, è la più fresca dei prossimi 50 anni, così dicono. Abbiamo con noi, abbiamo la fortuna di avere con noi Roberto Maggioni. Ciao. Ciao Roberto. Una fortuna addirittura. Dai, sì, sì, dai, dai, assolutamente, fortunissima. Meno male che con me c'è anche Alice, che è l'unico vero scoglio, nonché lume, nonché faro dirigente di questa trasmissione. Ciao a tutti e a tutte. Yeah, c'è anche lei. Non rimango umida, non è vero. Rimane umida, ma solo, ma rimane umida soltanto perché è al mare. Adesso questa cosa qua la facciamo pesare, perché comunque va bene fare le cose tutte belle, però facciamo pesare che c'è chi è qua a prendere il caldo. Va bene, allora, il nostro giornalista si presenta da sé, voce storica di Radio Popolare, nonché militante sincero, ha scritto dei libri sempre che parlavano di Milano, Ex Populis se ne parlava giusto poco fa, nel fuori onda che precedeva la nostra diretta, e Roberto Maggioni, ma non so, da cosa vogliamo iniziare, Alice? Inizia tu, vai, buttati, lanciaci la prima domanda. Vai, vai. Lancio la prima domanda, ma io lascerei i temi caldi per dopo e inizierei da qualche domanda introduttiva un po' sul tuo lavoro, visto che appunto Free Speech di giornalismo e non solo, insomma, iniziamo un po' dalla parte del giornalismo, come abbiamo fatto l'altra volta. Quindi ti inizio con delle domande molto semplici: cosa ti ha spinto a voler diventare giornalista e che percorso hai fatto per diventarne la tua professione, e soprattutto come mai la scelta di lavorare in radio? Beh, allora, innanzitutto grazie che mi avete invitato in questa trasmissione, in questo spazio all'interno della vostra radio. Tra l'altro, visto che festeggiate i 300 podcast, cioè, con molta sobrietà, un'impresa praticamente, molto sì, più di quelli di Radio Popolare. Ma chiusa questa parentesi, allora, io ho iniziato a pensare al giornalismo dopo il G8 di Genova, dopo il 2001. Tra l'altro oggi è il 19 luglio, quindi siamo proprio nei giorni dell'anniversario, e io ho scoperto Radio Popolare poco prima appunto del G8, perché io sono originario di un paese in provincia di Lecco, e con una serie di collettivi di quelle parti, tra i vari organi di informazione, tra i vari luoghi dove andavamo a cercare cose su Genova, sul Fondo Monetario Internazionale, sui gatti, insomma su tutti quei temi che riguardavano quelle giornate genovesi, ci eravamo imbattuti anche in Radio Popolare. E io già un po' scrivevo perché avevo delle fanzine di musica punk, di musica alternativa, quindi un po' già scrivevo, perché suonavo, quindi insomma mi piaceva comunque scrivere. Dopo Genova ho capito che il giornalismo, fare il giornalista, provare a raccontare pezzi di realtà, poteva essere il mio pezzo di contributo a questo mondo. E quindi con molta calma un po' mi sono avvicinato al giornalismo, con molta calma nel senso che poi quando io ho finito le scuole superiori, per questioni insomma economiche, di famiglia, ho dovuto lavorare qualche anno prima di iscrivermi all'università. Poi però mi sono iscritto all'università a Scienze Politiche e lì ho iniziato un po' a collaborare con alcune insomma giornalini dell'università, le classiche cose che si fanno all'università, ma poi ho pensato proprio di andare a propormi a Radio Popolare, quindi io proprio semplicemente Radio Popolare è il luogo in cui ho iniziato a fare davvero il giornalista, perché appunto le cose che ho fatto prima, che facevo prima, erano molto amatoriali, anche se però sono state una buona palestra di scrittura, e questo è utile, quindi fare cose per passione ancora prima che per lavoro o per insomma visioni professionali è molto molto molto utile, perché ti sperimenti con quello che stai facendo, che sia il linguaggio, che sia la radio, che siano altre forme di comunicazione o di o di arte varia. E quindi mi sono proposto alla Radio Popolare. Io ero iscritto a Scienze Politiche, seguivo un po' i movimenti dell'Onda, era il 2008, in quegli anni, e quindi le prime cose che ho fatto erano proprio sull'università, le mobilitazioni studentesche, e ho iniziato la sera a fare i giornali radio di Radio Popolare. Quindi questo è stato un po' il mio inizio. Genova, devo dire che mi ha dato, il G8 mi ha dato una bella botta, perché insomma, chi c'è stato ovviamente sa che cosa non che cosa è successo, ma ciascuno di noi che c'è stato si porta dietro insomma delle cose anche a livello personale, non solo politico, e per me è stata anche quella cosa lì, la voglia di raccontare le cose perché le avevo viste. Quindi poi, tornando a casa, mi ero reso conto che c'era un racconto mainstream mediatico completamente sfalsato, di parte, e che voleva contribuire a distruggere quel movimento. Io invece avevo visto un'altra cosa, e quindi volevo raccontarla, questa cosa che avevo visto direttamente. E niente, un po' di anni dopo questa cosa è diventato fare il giornalista, provare a fare il giornalista, provare a farlo nel modo più... tu prima hai detto un sincero militante, anche nel modo più sincero possibile, cercare di fare questo mestiere, che poi è un mestiere che ti porta a prendere parte, a schierarti, ma ho sempre cercato di farlo nel modo più laico possibile, nonostante io abbia ovviamente una mia visione del mondo e delle cose, e l'oggettività non esiste, però una certa onestà nel provare a raccontare i fatti prima delle opinioni, quello invece può esserci. Quindi ecco, questo è stato un po' il mio inizio e come mi sono approcciato alla materia giornalistica. Scusami Roberto, delle precisazioni che sei anche libero magari di non dare. Più o meno tu quanti anni avevi quando hai partecipato al G8 di Genova? Io avevo 19 anni, dovevo compiere 19 anni e avevo appena finito la scuola, e appunto ho dovuto ritardare poi l'iscrizione all'università per questioni economiche, e qualche anno dopo poi ho iniziato a fare il giornalista a Genova, dovevo compiere 19 anni. E mentre quando ti sei proposto a Radio Popolare, questo più che altro perché... tutta questa serie di programmi in realtà è basata sul fatto che Alice potrebbe diventare giornalista, quindi stiamo cercando di capire quali sono i passaggi, no? Step by step. Quindi quando ti sei proposta a Radio Popolare, più o meno quanti anni avevi? Allora, io le prime cose credo di averle fatte a 26-27 anni, quindi neanche presto, diciamo. La speranza. Voglio tempo per lavorarci. Sì, a 26 anni, sì, credo. Perché erano 4-5 anni dopo, più o meno, e ho iniziato a fare le prime... È stata una collaborazione che è partita lentamente, perché io appunto facevo anche l'università, quindi stavo lavorando, cioè o meglio stavo iniziando a collaborare con Radio Popolare, avevo dei lavoretti, dovevo incastrare lo studio, quindi è stato un inizio un po' rocambolesco. Poi diciamo la cosa si è un po' più strutturata quando hanno iniziato a propormi delle collaborazioni a tempo determinato, in alcune fasce, prima il fine settimana, poi alcuni giornali radio, quindi poi pian piano si è strutturata, però per forse anche 2-3 anni è stata un po' un inizio di collaborazione un po' vecchio stile, come si faceva un tempo, cioè un po' per militanza, un po' per passione, un po' per caso, un po' per insomma una serie di motivi che poi si incrociano, magari non hai neanche le idee chiarissime su quello che vorresti fare, e poi alla fine riesci a mischiare le cose e farle saltare fuori. Forse oggi, nonostante non siamo passati poi così tanti anni, le cose mi sa che sono già un po' diverse, perché vedo che comunque ci si approccia alla materia giornalistica passando oramai tantissimo dalle scuole di giornalismo, mentre prima si arrivava un po' dalla vita vissuta, dalle proprie esperienze, dalle proprie competenze. Adesso invece c'è un percorso un pochino più accademico istituzionale, che università, scuole di giornalismo piuttosto che master in giornalismo, e poi il tentativo di inserirsi in qualche redazione, in una fase storica dove poi magari ne parleremo. Comunque il giornalismo, l'industria giornalistica è in pesante crisi ed è invece in costruzione, in ascesa, il giornalismo un po' individuale, cioè quello che ciascuno di noi, di voi può fare dalla sua cameretta con il suo telefono e le sue competenze, perché oggi ci sono dei mezzi che ti permettono di fare cose che anche solo 10 anni fa non potevi fare. Cioè oggi puoi avere un pubblico anche se non sei in una redazione giornalistica, 10 anni fa no. Guarda, già queste cose che hai detto hanno aperto 50.000 domande, ma prego Alice, fai quello che vuoi, poi io ci torno, tanto io ho scritto, per cui dopo no, io rimarrei un attimino ancora su questo argomento, in realtà, sinceramente, perché lo trovo molto interessante. E ne abbiamo parlato un po' anche l'altra volta ed era tra le cose che avevo pensato di chiederti, anche un po' cosa vuol dire essere giornalista oggi in questo mondo in cui siamo iperbombardati da notizie continuamente sui social, e quindi qual è secondo te il ruolo dei social e cosa vuol dire essere giornalista oggi, e soprattutto qual è il ruolo che un giornalista deve avere oggi con i social come proprio fenomeno, secondo me, che sta prendendo piede sempre di più e che apre anche la porta a dei rischi, secondo me, per l'informazione. È una bella domanda, che cosa vuol dire essere giornalista oggi. Allora, secondo me essere giornalista oggi è come essere giornalista 10, 20, 30, 40, 50 anni fa, ovviamente con delle differenze che hanno a che fare anzitutto con i mezzi e attraverso i quali tu fai il giornalista, perché anni fa c'erano pochi mezzi attraverso i quali comunicare e i movimenti, insomma tutto quello che era al di fuori dei mezzi ufficiali, si doveva inventare dei mezzi indipendenti per comunicare cose che magari non passavano dall'alto. Oggi invece è tutto ancora più frammentato e con i social, come introducevi tu nella tua domanda, è cambiato tutto. Quindi essere giornalista oggi significa, per me, è ancora raccontare pezzi di realtà. Questa è la cosa fondamentale, raccontare dei pezzi di realtà e contribuire a questo racconto, dare a chi ti ascolta, a chi ti legge, a chi ti guarda degli strumenti e delle informazioni in più per comprendere la realtà, oppure dare degli spunti diversi, degli spunti, dei punti di vista diversi sullo stesso fatto. Farlo oggi il giornalista significa però competere con una quantità di informazioni allucinante, cioè noi siamo potenzialmente bombardati H24 da informazioni di qualsiasi tipo, di qualsiasi provenienza, verificate, non verificate, cioè viviamo veramente nell'epoca della sovraesposizione delle informazioni, e quindi bisogna crearsi una sorta di mappa per riuscire a muoversi in questa quantità enorme di informazioni. Il giornalista deve anche, come dire, comprendere e capire che oggi compete con questa quantità di informazioni, cioè non può far finta di nulla, perché sennò rischia di scrivere e dire delle cose molto interessanti ma che però non legge e non ascolta nessuno, e questo è terribile perché è come non farle. Cioè il giornalismo ha senso se un minimo riesce ad incidere nella realtà, sulla realtà, e contribuisce a stare in un racconto reale. Per farlo deve arrivare alle persone, non puoi fare il giornalista da solo parlando a te stesso, non ha senso, se no sarebbe un monologo allo specchio. E così, ecco, il giornalista oggi deve porsela questa questione e quindi interfacciarsi con tutti i nuovi mezzi di comunicazione. Boh, anche se non ti piacciono, però in qualche modo ti ci devi avvicinare, devi quantomeno trovare una tua chiave per utilizzarli, anche in un modo appunto personale che magari è completamente diverso a come all'uso che ne fanno altri, però non puoi ignorare questa quantità di informazioni che arriva da tutte le parti, e non puoi, ahimè, ignorare, cioè, la mega macchina dei social network che si è innestata appunto negli ultimi anni, e che è una cosa, cioè un cambiamento inarrestabile. Oggi appunto siamo bombardati di informazioni che passano dai social, e un tempo ai tempi anche, ovviamente, cioè, chi ci sta ascoltando ovviamente le conosce bene queste cose, ai tempi di Indie Media si parlava appunto dei media attivisti, dei cittadini che potevano diventare in qualche modo segnalatori, giornalisti, cioè, ed eravamo però in un ambito militante, dove appunto si condividevano quantomeno alcuni valori di massima, ecco, oggi questa cosa è esplosa in mano a chiunque, e quindi chiunque è divulgatore di informazioni di qualsiasi tipo, e l'abbiamo visto nella pandemia, lo vediamo adesso nella guerra, lo vediamo in tanti esempi. Le persone credo che abbiano anche sempre più bisogno di ascoltare e sentire informazioni che rafforzino il loro punto di vista, e qui appunto potremmo introdurre un altro tema, che è quello della polarizzazione dell'informazione, che è diventato per me, da un certo punto di vista, piuttosto deleterio anche. Beh, come abbiamo visto, Roberto è uno che tira fuori poche cose, pochissime cose. Io però a questo punto, ma figurati, anzi peggio per te, rimarrai qui 6 ore, tanto lì c'è in vacanza, io sono qui al caldo, di meglio non ho niente da fare. Però a differenza della puntata scorsa, in cui abbiamo fatto una vera follia radiofonica, cioè abbiamo fatto 1 ora e mezza di parlato filato, perché in quel momento ero io invece quello che era, sì, ero impazzito, perché c'era Gabriele Battaglia, che tra l'altro collabora anche con Radio Popolare, esatto, sì. C'avevo qua questa intervista tipo da 1 anno e mezzo che volevo beccarlo, per cui non mi sono mai fermato. Questa volta invece possiamo fermarci, ci prendiamo proprio 2-3 minuti, lasciamo una traccia di Felacuti in sottofondo, così noi prendiamo fiato, chi ci ascolta da casa prende fiato, e dopo torniamo meglio di prima. Va bene? A tra pochissimo. dimostrando che è possibile che un essere umano di tipo maschile, di sesso maschile, riesce a fare due cose contemporaneamente. Torniamo in onda, Free Speech, martedì 19 luglio, Radio ZM, siamo in diretta con Roberto Maggioni e stiamo parlando per ora di giornalismo, poi parleremo anche di informazione locale, dato che Roberto ci illumina la mattinata con Metro Regione da quanti anni? Un sacco, da 10 almeno. Da 10. Io è uno dei ricordi, tipo ruggito del alla radio è ruggito del coniglio 610 su Radio 2. Vabbè, facciamo un po' di pubblicità purtroppo. E Metro Regione la mattina, soprattutto d'inverno. Alle 7 e un quarto, ma come si fa a svegliarsi alle 7 e un quarto e parlare? Cioè, no, svegliarsi due ore prima e parlare alle 7 e un quarto. Ma infatti la questione è questa, ma se io che vado a lavorare in cantiere, vabbè, mi sveglio alle 6, mi preparo, alle 7 e un quarto sono contento, sono in macchina, ascolto la mia regione, sono felice, non devo dire niente, ascolto. E dopo magari ne parliamo, cioè chi deve fare le trasmissioni mattutine di Radio Popolare o di qualsiasi altra radio si sveglia degli orari improbabili, poi non è più una vita. C'è una doppia vita dei radiofonici della mattina che è meravigliosa, perché sì, vedi la città svegliarsi e ti svegli quando gli altri dormono e gli parli quando gli altri si stanno svegliando, cioè tutto... Devi anche essere molto gentile ed educato, sperare che sia già arrivato il caffè, se no chissà quanti vaffanculi ti sei preso da gente non ancora abbastanza sveglia ad ascoltarti. Va bene. Il problema è quando arrivi in radio ed è rotta la macchinetta del caffè. No. È un dramma. Potresti fare una prova di, chiaro, diciamo, questa prova di fede e di amore verso il proprio radioconista e chiedere che qualcuno ti porti un caffè, se qualcuno è uscito di casa in zona. Va bene. Lo facevano a Radio Pop nelle notturne, nelle trasmissioni di notte. Ma che storia. Le trasmissioni di notte ovviamente hanno salta qualsiasi tipo di formalità o registro, quindi il massimo della sperimentazione, e sai che stai parlando quasi all'ascoltatore singolo, cioè non è la massa del giorno. E lì io quando ero ascoltatore di Radio Popolare sentivo queste trasmissioni notturne e spesso arrivava gente a portare, cioè, pizzette, pasticcini, robe alle due di notte, cose prese dai posti che restano aperti per quando c'è la fame notturna, e passavano anche in radio, era bello. Mi faccio a piccolo angolo a Marco Arda anch'io, e mi ricordo che Andrea Cegna, che poi andremo a beccare anche lui con questa serie di trasmissioni in quanto giornalista, ora in forze a Radio Onda d'Urto, ma prima a Radio Popolare. Cegna aveva condotto uno speciale notturno alla vigilia di Natale e c'erano dei compagni e delle compagne di ZAM presenti in studio, che anche lì effettivamente sperimentazione totale, cioè c'è già gente in studio che non ha mai fatto radio, ma venne una bella trasmissione. Qualcuno si lamentò perché era arrivato un messaggio, in redazione, tipo, ah, la peggior trasmissione di sempre, sta dicendo tanto cazzate. Vabbè, guarda, questa è la norma, se ne è arrivato uno è stato un successo. A posto. Va bene, allora io tornerei indietro su alcuni argomenti. Allora, appunto, primo perché c'era un passaggio la prima domanda che ha fatto Alice che mi interessava, anche in relazione a quello che diceva Roberto riguardo al fatto che ormai l'informazione si muove sui social e siamo tutti emettitori di informazioni. Perché la radio? La radio che insieme al giornale è forse uno dei sistemi di informazioni più classici, è proprio la figura novecentesca del radiofonista, del radiocronista che parla agli apparecchi radiofonici del mondo. Perché la radio, Roberto? Perché ti piace? Cosa ti piace della radio? Cosa riesci a fare con la radio che altrove non riusciresti a fare? Ma allora, appunto, credo che anche qui c'entri un po' il G8 di Genova, perché poi... Tornando a casa ho ascoltato una quantità di trasmissioni, cioè il punto della radio in quegli anni era che era davvero uno strumento molto caldo, molto empatico e che riusciva a metterti in contatto con altre persone, e questa è una cosa fondamentale, cioè non c'erano i social network, non c'era Facebook, c'era la radio, cioè quindi sentire le voci di altre persone come te che chiamavano in diretta, che raccontavano, che spiegavano, che dicevano la loro, che condividevano il proprio dolore, la propria rabbia, la propria gioia per quello che era successo e che avevano appena vissuto, mi ha abbastanza scombussolato, mi ha colpito molto il calore del mezzo radiofonico. E poi appunto l'ho sempre trovato un modo interessante per approfondire, capire bene le cose, che fossero informazioni giornalistiche, news, ma anche trasmissioni musicali, cioè ne ho divorate tantissime di trasmissioni musicali anche qui prima dell'epoca della diffusione massiccia degli MP3, dello streaming, la radio aveva anche un suo ruolo nel farti ascoltare delle cose che se no era complicato ascoltare, e poi era bello sentire come altre persone mettevano insieme speciali su gruppi, scene musicali, e quindi ci mettevano tutto il loro lavoro di ricerca che poi ti restituivano con la loro voce, con la musica. È un mezzo molto umano, perché dentro senti gli errori, senti le imperfezioni di chi sta parlando, senti le sue virtù, senti quanto è bravo, senti quanto non è in giornata, quando non è in giornata. Cioè è un mezzo, come dicevi tu, ancora molto umano, perché è fatto con, cioè, con la voce, quindi con una parte del corpo importante. E anche il giornale è così, però il giornale tu scrivi, va in stampa e poi tu insomma leggi quello che sul giornale c'è scritto. La radio è ancora più empatica. E poi c'è un'ultima cosa che mi piace tanto della radio e che mi piace molto ancora oggi, che è il racconto in diretta, da esterno, da inviato, da cronista, quindi oltre al lavoro che fai in redazione, che fai dietro al microfono, in studio, quindi la conduzione delle trasmissioni, per me forse questo è ancora più bello, cioè raccontare, essere fuori quando succede qualcosa, tu sei nel posto in cui sta succedendo quella cosa e la stai raccontando a qualcuno che non è lì. Tu lì stai facendo, per me, il massimo di quello che dovresti fare, cioè raccontare qualcosa a qualcuno che non la sta vedendo. Poi dopo arriveranno i commenti, le opinioni, si scazzerà su quello che uno ha detto, gli editoriali, tutto quanto, le analisi, gli approfondimenti, però proprio quella cosa che tu sei lì in diretta, sta succedendo qualcosa e la stai raccontando a non sai chi, è una cosa che ancora oggi è bella e ti... Sì, mi lascia, mi dà proprio è un brivido bello, molto forte, quello della diretta, e la responsabilità anche di essere in quel racconto il più, ecco, onesto, laico, possibile. Cioè hai una bella responsabilità, perché chi ti sta ascoltando poi si fida di quello che stai dicendo e non devi tradirla questa fiducia. Quindi insomma queste 3-4 sono le cose che mi piacciono ancora oggi di più della radio. Fantastico. Io avevo un'altra domanda, ma penso che sia meglio che la faccia Alice, che è più simpatica di me sicuramente. Vai, poi la mia la tengo dopo. No, ma io nel senso farei le ultime domande su questo e poi mi butterei in quelle un pochino più di attualità e Regione Lombardia e politica e cose. Però l'ultima proprio cosa che volevo togliermi è, sempre parlando di radio, abbiamo appena parlato appunto di cosa ti piace del lavoro in radio, ma invece se parliamo invece del futuro della radio rispetto alle nuove generazioni, perché adesso è un po', appunto prima parlavamo tanto di mezzi, nuovi mezzi di fare informazione, i social sono quelli che vanno di più adesso, insomma. Qual è il futuro della radio rispetto alle nuove generazioni? Perché io, parlando con i miei coetanei, insomma, io ho 19 anni, la radio ormai non è più tanto ascoltata dai giovanissimi. Tu Alice ascolti la radio? Io ascolto la radio soltanto a volte perché la mamma la mette la mattina, grande fan di Radio Popolare. Però... questo è il dramma di tanti giovani milanesi under 30 che hanno i genitori che ascoltano Radio Popolare, che sono indirettamente costretti. E no, in realtà appunto mi sa che la risposta un po' l'hai data tu, Alice, perché allora sì, effettivamente sotto i 30 anni sono poche le persone che ascoltano la radio, se ne fa un ascolto forse prevalentemente in auto, negli spostamenti, e poco a casa. Allora, la radio ha comunque, credo, davanti a sé ancora un futuro importante, a differenza dei giornali, che invece sono in pesante crisi. Cioè l'industria giornalistica della carta stampata è in una crisi colossale, epica, cioè perdono nessuno, cioè non so se voi conoscete qualcuno che compra dei giornali, immagino di no, ma cioè i giornali davvero sono purtroppo in una crisi irreversibile, e la carta stampata è in una crisi irreversibile. Ora io mi auguro che i giornali riusciranno in qualche modo anche loro a reinventarsi, a stare sul mercato, a trovare dei modelli di business diversi, però è molto difficile, ed è molto difficile soprattutto per i quotidiani. Apro una piccola parentesi, qui forse bisognerebbe aprire un ulteriore ragionamento sul ruolo dell'informazione e sul finanziamento pubblico dell'informazione, cioè se si pensa che per una democrazia sia importante avere una pluralità di stampa, una stampa plurale, un insieme di media e di canali di informazione, forse allora, come per altre cose che riguardano gli ambiti pubblici, può avere senso continuare a dare una forma di finanziamento alla stampa, ai giornali. Cioè all'inizio del Novecento è nata così, perché si riteneva che una stampa libera, una stampa libera di scrivere quello che vuole, poi si possono criticare i vari quotidiani a seconda di come uno la pensa ovviamente, però una stampa libera può solo che far bene alla democrazia, se no c'è la voce unica e la stampa di partito o di regime. Chiusa questa parentesi, appunto i giornali dovranno trovare dei nuovi modelli di business. La radio in qualche modo è sopravvissuta alla crisi degli ultimi anni, ovviamente la crisi della pubblicità colpisce anche la radio, però appunto poi dai 40 anni credo in su si riprende un po' anche ad ascoltare la radio, anche a casa, anche in altri momenti che non siano quelli della guida, del drive time, eccetera. E poi appunto la radio, essendo un mezzo molto caldo, ha la possibilità di coinvolgere i propri ascoltatori, le proprie ascoltatrici, cioè coltivarla la comunità, coccolarla, e quindi organizzare cose e all'interno della radio che portino gli ascoltatori dentro la radio, ma soprattutto fuori. Infatti le radio cercano quando possono di uscire, organizzare festival, situazioni esterne, perché questo crea una affezione tra chi ti ascolta e chi la radio la fa. E poi ultima cosa, ecco, ovviamente però anche la radio si deve porre, o meglio doveva già porsela, la questione di come stare sui nuovi mezzi di informazione, sui social media, quindi, perché come dicevo prima, se vogliamo parlare ad Alice, probabilmente dobbiamo fare delle cose fatte bene anche su Instagram, perché altrimenti, tranne che quando sua mamma accende alla mattina Radio Popolare, difficilmente magari entrerà in contatto con la radio in quanto radio, però magari utilizzando, cioè, i mezzi che utilizzano le persone, i giovani, riesci ad allargare il pubblico. Ed è una cosa, cioè non è una cosa, come dire, secondaria, è una cosa molto importante, perché appunto fare cioè l'informazione, il giornalismo hanno senso se viaggiano, se raggiungono tante persone, e quindi ci devi stare lì dove ci sono i vari target di età, i vari target di fasce sociali, se no parli un po' una nicchia, ecco. Grazie mille. Grazie Robby. Allora, seguendo le indicazioni dell'unico vera caporedattrice che esiste in questo programma, cioè Alice, mi sposto sul tema, sull'altro tema della puntata che volevamo affrontare con te, Roberto, proprio in virtù del programma, vabbè, magari non l'unico, sicuramente non l'unico, e magari non quello che ti piace di più, magari poi ce lo dirai, però io ti ho sempre associato a Metro Regione, e per cui questa ha una dimensione delle informazioni locali, della radio come servizio alla comunità più ristretta, anche se la Lombardia c'ha 10 milioni di abitanti, non pochissimi, in un certo modo per la comunità ristretta, però un tipo di informazione che magari non affronta la geopolitica internazionale, sceglie di evitare di parlare di magari politica nazionale, e si concentra invece su il rapporto tra i comuni, le amministrazioni locali e varie altre piccole notizie, tra virgolette. quindi io partirei proprio da qui. Tu perché hai scelto di occuparti, se l'hai scelto o se ti piace, di occuparti di informazione locale, e che cos'è in maniera più estesa l'informazione locale? Perché non è soltanto appunto le informazioni che sono dentro il cartello Milano del comune o della regione, è penso anche forse quello che riguarda più direttamente la vita delle persone. Qual è la tua, il tuo punto di vista su questo? Ma se dovessi dare una definizione di informazione locale, forse è quella di dare voce ai territori, cioè individuare dei luoghi e raccontare le storie di quei luoghi. Raccontando le storie di quei luoghi, racconti le persone che abitano quegli spazi, quei luoghi, e le rendi protagoniste di quelle storie. Quindi è un modo molto anche qui umano e ravvicinato di stare dentro il mondo dell'informazione, del giornalismo, e di raccontare quei pezzetti di realtà che dicevo prima. Per me l'informazione locale è la base, cioè è fondamentale, perché ti dà la possibilità di raccontare delle cose che poi, appunto, stando tra l'altro in un contesto come Milano, ma questo vale un po' per ogni luogo, ogni territorio, sono cose che spesso anticipano poi tendenze che accadono a livello nazionale, fenomeni che succedono altrove, e l'informazione locale è una palestra fondamentale per, appunto, fare, se vuoi fare il mestiere del giornalista un po' così da vecchia definizione, cioè appunto colui che va lì dove è successo qualcosa e te lo racconta, perché a livello locale materialmente lo puoi fare, lo devi fare, e lo puoi fare immediatamente. Ovviamente se succede qualcosa dall'altra parte dell'Italia, negli Stati Uniti, in Ucraina, cioè tu devi prendere una persona, un inviato, fare un investimento economico e mandarlo là a seguire quella cosa. A volte lo puoi fare, quasi sempre, altre volte no. Sull'informazione locale invece siamo qui, se c'è una protesta fuori da una fabbrica, se c'è una protesta in università, se c'è un convegno, se ci sono dei fatti di piazza, se ci sono delle questioni politiche da seguire all'interno dei palazzi, se devi andare a verificare delle informazioni, lo puoi fare, e lo puoi fare in prima persona direttamente, non solo al telefono. Cioè se c'è da verificare delle cose in un ospedale perché durante il Covid non ti tornavano alcune cose che venivano raccontate, prendi, vai in quell'ospedale e ti fai raccontare le cose e le vedi con i tuoi occhi. E quindi è un modo, è il livello base, ecco, dell'essere giornalista. Poi essere giornalista può essere anche tante cose, cioè uno può essere un bravissimo comunicatore, quindi non so, penso allo stile giornalistico del Post, che hanno costruito la loro fortuna sul raccontare le cose spiegandole in maniera piuttosto esaustiva. Lì magari c'è meno un lavoro sulle singole notizie, sulla ricerca delle notizie, ma c'è un grande lavoro di verifica e di scrittura di quelle notizie. Quindi tu, leggendo i loro pezzi, hai, diciamo, una base molto solida di spiegazione su quel fatto, però magari gli mancano delle altre cose, che sono appunto quelle che con l'informazione locale puoi fare in modo più ravvicinato. E quindi sì, io un po' l'ho scelto perché anche dentro la radio poi mi è sempre, appunto, partendo come dicevo prima dalle, un po' anche dalle proteste in università, i movimenti, raccontando anche un po' di cose che riguardano il sociale di Milano, i migranti, eccetera, portavo storie e notizie che accadevano a Milano, e quindi poi quello è stato un po' il campo d'azione nel quale più mi sono sperimentato. Poi vabbè, sì, adesso, cioè la mattina abbiamo appena chiuso questo ciclo di trasmissioni, Prisma è una trasmissione nazionale, parliamo anche di questioni internazionali, ovviamente, però così il mio grande amore rimane sempre, cioè rimangono le piccole storie locali, perché secondo me poi raccontano bene fenomeni più grandi. Yeah, grazie mille. Alice, prego. Ma bellissimo, io rimarrei un pochino su questo argomento. Mi è venuto in mente appunto, purtroppo, tornando a parlare come sempre si fa negli ultimi anni della pandemia e di Covid, appunto perché immagino la radio è un mezzo molto vicino alle persone e l'informazione locale ha un po' l'obiettivo appunto di andare a raccontare le piccole storie vicine a noi. Cosa hai percepito dalle persone durante la pandemia? Cioè, prima di passare agli argomenti un po' più politici, perché io sarei curiosa di chiederti anche un pochino qual è il tuo punto di vista sul perché ad esempio la giunta non è caduta durante e dopo il Covid in Lombardia, visti i pasticci che sono successi, però partendo un po' dalla percezione delle persone della pandemia in Lombardia, qual è il tuo punto di vista su questo? La pandemia è stato un bel casino. Credo che ciascuno di noi ne è uscito, nonostante appunto comunque il virus sia ancora tra noi in forme diverse, però ecco, parliamo soprattutto del primo anno. Ciascuno di noi ne è uscito con delle ferite, qualcuno personali perché magari ha perso delle persone care o a lui vicino, ma comunque anche con delle ferite collettive, anche delle ferite di comunità, perché poi la pandemia è stata anche gestione della pandemia e quindi divisione anche sui provvedimenti che il governo ha preso. Credo che anche nella vostra comunità, come dire, di militanti ci siano state opinioni diverse, percezioni diverse di quello che stava accadendo, in particolare forse questo nel 2021, quando poi è stato introdotto il Green Pass, c'è stato un po' l'obbligo mascherato della vaccinazione. Cioè è stato un momento doloroso inizialmente perché c'era di mezzo la vita e quindi la morte, e quindi la cosa più forte che ci smuove dentro. E poi dopo arriva la politica, arriva la gestione e lì ti dividi. Per me è stato... Io ho passato i primi mesi a cercare di capire e di parlare il più possibile con le persone che mi sembravano più competenti e più all'interno di quello che stava accadendo. Quindi il primo mese di trasmissioni che ho fatto erano tutte con i medici, non tanto con gli scienziati, i virologi che poi abbiamo imparato a conoscere e vedere anche in televisione, ma con i medici che stavano negli ospedali, cioè per capire cosa diavolo stesse succedendo davvero, cos'è una polmonite, ma che tipo di polmonite è, ma perché si aggrava in 2 settimane, ma perché ti manca l'ossigeno. Cioè c'erano delle cose da capire con chi le stava affrontando nelle corsie. Per me questa era la cosa fondamentale. Poi io ho lavorato tanto su Bergamo, quindi la Valseriana, dove il focolaio è diventato devastante nelle prime settimane, e lì subito mi sono scontrato, imbattuto ovviamente con la politica, perché c'era la richiesta della zona rossa, la regione Lombardia e il governo non l'hanno mai fatta, c'erano le pressioni di Confindustria per non chiudere nulla, in una fase in cui era chiaro che invece l'unica cosa che poteva diminuire la diffusione del virus era l'isolamento e quindi anche la chiusura di alcuni luoghi della produzione. Cioè è stato veramente un periodo complicato, complesso, e mi è dispiaciuto poi vedere che col passare dei mesi le persone si sono un po', insomma, ciascuno è diventato un po' il massimo esperto di questa cosa, detentore di verità assolute, e quindi si è poi alimentata anche con la complicità, o meglio sì, con la complicità dei media, dei mezzi di informazione, una caccia alle streghe per me pazzesca e insensata verso chiunque sollevava la minima critica sulla gestione della pandemia. Ecco, poi lasciando stare eccessi complottisti, però come dire, è normale parlare di qualsiasi cosa, e quindi poi più sono passati i mesi e più la cosa da sanitaria è diventata, ahimè, politica, e quando diventa politica poi ci si scontra, ci si divide. Credo che però, a differenza di altri eventi passati, questa volta le divisioni sono state anche all'interno delle nostre comunità, dove pensavamo di avere tutti le stesse sensibilità, la stessa sensibilità di vedere tutte le cose più o meno allo stesso modo, e invece ci siamo scoperti anche un po' diversi davanti a un evento così, così forte, e che ha delle, avrà delle conseguenze che ancora stiamo pian piano sperimentando. Cioè, voglio dire, penso che appunto Alice possa essere testimone di cosa abbia significato farsi quasi un anno e mezzo in DAD, e quindi insomma le conseguenze della pandemia, oppure in questi giorni stiamo vedendo il caos per prendere un aereo, e quella è tutta figlia della pandemia, cioè società che hanno licenziato durante la pandemia e che ora non, sono, non hanno più riassunto, e quindi si ritrovano a gestire delle cose frutto di quelle chiusure, ma però con la logica di un profitto insensato che le ha portate a voler risparmiare anche nel momento in cui invece il turismo sta esplodendo. Quindi insomma questo è il mondo incasinato, però la pandemia è stata una bella ferita di cui bisognerà parlare. Tra l'altro in questi giorni è uscito il disco degli Assalti Frontali nuovo, che in alcuni brani affronta la questione. Ci sono due o tre pezzi che mettono le mani dentro per bene nei due anni di gestione soprattutto della pandemia. Come si vede che sei ragazzo anni 90 che parli di Assalti Frontali? Che chio, quanti anni hanno adesso che fanno uscire il nuovo disco? Qualcuno? Qualche anno? Il primo disco era del 90, e quindi Assalto Frontale forse era il primo disco? Perché ho preso la discografia una volta? Boh. C'era, no, Batti il tuo tempo. Batti credo, il tuo forse. Tempo, ma che posse totale, un album di posse assoluta. Va bene, allora io invece con mossa veramente schifosa, ma sono fatto così, soffio ad Alice la domanda e faccio la domanda. Cioè, vabbè, io la pongo così anche perché come collettività di Zam ci siamo passati, ovvero abbiamo tentato di dire delle cose riguardo a Fontana, abbiamo provato a dargli la colpa e la responsabilità di quello che era successo. Evidentemente non si poteva chiamare Fontana assassino, sembra che non si possa fare, non si potesse fare in nessuna maniera, e si veniva fronteggiati da, come dire, dall'apparato repressivo in maniera molto dura. La domanda quindi che pensate volesse fare Alice era anche la mia: perché Fontana è ancora lì? Com'è possibile che siano morte 16.000 persone, erano morte nel primo anno, ora siamo arrivati forse a 40.000, dicevano? Perché c'è questa ecatombe in Lombardia e comunque Fontana pare non soltanto essere inamovibile ma anche intoccabile, cioè non si può nemmeno criticarlo, condizione che forse porta al fatto di non essere poi inamovibile. E non so come dire, se fosse possibile, chiedendolo a un giornalista magari si rischia anche qualcosa, però cosa c'è sotto? Come mai Fontana rappresenta degli interessi così importanti per diversi gruppi di interesse in Lombardia, per cui qualsiasi cosa l'abbia potuto fare di male, di schifoso durante la pandemia, comunque non ha portato a farlo dimettere? Ma allora, forse punto primo, per una regola generale che la politica non processa mai se stessa e quindi non si dimette quasi mai la politica. Poi possono esserci situazioni nelle quali invece una spinta dal basso o delle campagne mediatiche possono arrivare a quel risultato, però non è così semplice far dimettere un sindaco, un presidente di regione o in mobilitazioni nazionali arrivare alle dimissioni di un governo. Nella faccenda della pandemia la cosa è complicata, perché per voi, per noi, alcune responsabilità politiche sono evidenti, e secondo me ha ragione. Perché io poi, approfondendo appunto quanto accaduto in particolare della Bergamasca, mi sono fatto un quadro piuttosto chiaro di come siano andate le cose, di come siano state prese alcune decisioni e perché. e quindi il giudizio politico è chiarissimo. Su quei fatti adesso c'è in corso anche un'inchiesta della Procura di Bergamo e quindi entro alcuni mesi avremo anche il punto di vista dei giudici, della magistratura, degli investigatori, che ovviamente hanno altre logiche che non sono quelle politiche, ma sono quelle di cercare dei reati e trovare le prove per incriminare i presunti colpevoli. Quindi sono altre logiche, ma all'interno dei processi si dicono tante cose, quindi pezzi di verità ulteriori verranno sicuramente fuori, anche se non si arriverà a delle condanne. Fontana è lì perché appunto non bastano neanche dei fatti così forti per far dimettere un politico. Di solito i politici fanno fatica a dimettersi anche quando sono indagati o anche quando arrivano condanne di primo grado, perché ovviamente siamo tutti garantisti e quindi ciascuno è innocente fino al terzo grado di giudizio, Fontana compreso, però è difficile arrivare a delle dimissioni. Si è dimesso l'assessore Gallera, ma perché poi spesso nella politica entrano in gioco altri elementi che hanno a che fare con la distribuzione degli incarichi di potere all'interno del potere e della gestione del potere, e quindi a un certo punto Gallera, campione di gaffe e autore di delibere agghiaccianti sulla gestione sanitaria, ha dovuto fare esposto a Letizia Moratti per questioni di ruoli, di potere che hanno a che fare con i partiti. E ultimo elemento, forse andare a, qua è difficile dirlo, trovare il modo di dirlo, però credo che più andiamo avanti più capiamo che le responsabilità della cattiva gestione della pandemia sono distribuite su tanti livelli, e quindi tirar giù il governo della regione Lombardia avrebbe significato tirar giù anche quello nazionale, perché i due livelli di governo sono collegati, così come sono collegate le gestioni locali anche della pandemia. Cioè ci sono anche delle responsabilità locali in alcuni ambiti, comunali, per alcune cose. È stata una cosa enorme che non avevamo mai sperimentato prima, quindi è giustissimo andare avanti e proseguire con la critica, e la critica in particolare della regione Lombardia, perché la Lombardia è stata il disastro d'Italia, il disastro d'Italia. Però senza farci troppe illusioni, perché non è stata una faccenda troppo grossa per creare scossoni politici veri a quel livello. È così, purtroppo col realismo va vista in questo modo. Il problema è c'è un altro problema, però poi veramente mi taccio, è che nel 2023 si voterà in questa regione e lì la parola passerà ai cittadini, e i cittadini avranno voglia di bocciare la destra anche per la gestione folle della pandemia, punto di domanda. Io allora, io proprio su questo che vorrei fare le prossime domande. Brava Alice, ma prima stacchino musicale, cosa ne dici? Esatto. Madonna, telepatia qua in redazione, fantastico. Allora ci ascoltiamo un piccolo brano di Fela Kuti e poi torniamo qui tra pochissimo, sempre a Free Speech. A tra poco. We'll be right back. Ok, questa volta l'ho fatta più semplice, ho utilizzato il mouse invece che due mani perché ho visto che l'ultima volta non è andata benissimo. Sempre free speech, sempre 19 di luglio, sempre ad ZM. Siamo sempre con Roberto Maggioni, voce di Radio Popolare. E ora la nostra giovane e fantastica Alice ci fa la prossima domanda. Prego. Allora, io volevo continuare appunto a parlare amministrazione in Lombardia, e appunto perché è venuto fuori l'argomento delle prossime elezioni volevo un pochino accendere questa domanda su il rapporto Moratti-Fontana, perché appunto nelle ultime settimane se ne è parlato un po' e insomma volevo sapere qual è il tuo punto di vista su questo, anche considerando il futuro delle elezioni in Lombardia. Allora, Letizia Moratti è diventata assessore al welfare perché sarebbe dovuta diventare poi la candidata del centrodestra alle elezioni regionali del 2023, in particolare per un motivo che Fontana aveva una serie di processi aperti per la gestione Covid, li ricorderete, quello dei camici, quello dei fondi in Svizzera, aveva due o tre indagini in corso, e quindi arrivare al 2023 con un presidente della regione con tre processi sul groppone, insomma, non era proprio il massimo, nonostante poi un pezzo di cittadini digeriscano qualsiasi cosa. E quindi Letizia Moratti diventava il candidato ideale, anche perché appunto è una politica organica al centrodestra, ma con una serie di relazioni sue personali, professionali, derivanti dalle sue attività imprenditoriali, sociali e di ex sindaca di Milano, piuttosto forti. Quindi è una che riesce a tenere insieme un pezzo del terzo settore, un pezzo del mondo privato, un pezzo di Comunione Liberazione, un pezzo dell'imprenditoria lombarda, cioè insomma è una politica, è una donna che ha una buona capacità di intessere relazioni importanti. E solo che cosa è successo? Che nel frattempo Fontana è stato archiviato o prosciolto nelle indagini che aveva a suo carico, e qui ahimè si torna un po' anche al discorso di prima, insomma, chi ripone troppa fiducia poi nella magistratura spesso resta fregato, perché poi appunto nei tribunali le cose hanno vanno insomma avanti in logiche che non sono sempre quelle ovviamente politiche ed è stato archiviato in tutti e tre i procedimenti che aveva a suo carico, e quindi la Lega, che in questo momento non vuole perdere pezzi di potere, essendo non più in ascesa come anni fa, ma in discesa nei consensi, quindi la Lega tra un anno prenderà meno voti rispetto a 2, 3, 4, 5 anni fa, vuole mantenere a questo punto i suoi uomini di potere in quelle posizioni di potere. Non avendo più processi di mezzo, ora si sono detti basta, candidiamo Fontana. A quel punto Moratti ha provato a sparigliare le carte dicendo io ci sono, io mi metto a disposizione, quindi si è autocandidata, però credo che se non ci saranno grosse sorprese noi ci ritroveremo ancora Attilio Fontana nel 2023 come candidato alla presidenza della Regione Lombardia, a meno che Fratelli d'Italia, che ora anche in Lombardia rischia di valere di più della Lega, non impunti i piedi per portare avanti una candidatura diversa rispetto a quella di Fontana. Però diciamo che con Fontana vanno un po' sull'usato sicuro, anche se, come dire, era un candidato abbastanza improbabile già 5 anni fa, nel 2018. Tra l'altro, candidato che comunque aveva fatto, cioè, non so se vi ricordate, delle uscite incredibili in quella campagna elettorale, dalla superiorità della razza bianca ad altre cose, cioè, delle cose che comunque, beh, insomma, cioè, sembravano veramente cioè, al limite della presentabilità. Però appunto, nonostante anche questi 2 anni di pandemia, il candidato probabilmente sarà lui, e sarà lui per queste logiche di potere, di posizione e dei partiti fondamentalmente. Prego, prego Alice, se vuoi continuare, sennò vado io. No, beh, gran bellissima situazione, perché appunto ne parlavo anche con appunto mia madre, grande scrittrice di radio, oggi invece c'è sorto questo dubbio, insomma, c'è l'impressione che in tutto questo la centrosinistra sia in silenzio e che la risposta alle politiche del centro-est sia sempre più debole, soprattutto in Lombardia. Quindi com'è che vedi la situazione del centro-sinistra, quanto è radicato nel territorio e come è cambiata la situazione appunto negli ultimi anni riguardo questa... Qua si toccano i tasti dolenti. Allora, il centro-sinistra in Lombardia fondamentalmente, sì, allora è di base è il PD, quindi c'è il PD e poco altro. A livello di partiti oggettivamente non c'è nulla, cioè c'era il Movimento 5 Stelle che 5 anni fa ha preso il 17%. Allora, una cosa che si dice poco è che in realtà 5 anni fa Fontana ha vinto battendo il candidato del centro-sinistra Gori con un distacco enorme, credo fosse tipo il 22-25%, cioè comunque un distacco pazzesco che subito, cioè, uno ti fa, tu pensi, cazzo, ha vinto con 20 punti di distacco, una vittoria schiacciante, vero? Però se in realtà si sommano i voti di Gori con i voti del candidato del 5 Stelle Dario Violi, che aveva preso il 17%, con i voti del candidato della sinistra a sinistra del PD, che era Onorio Rosati, e con i voti del candidato della sinistra a sinistra della sinistra del PD, in realtà si arrivava poco sopra i voti di Fontana. Cioè, se si fossero uniti 5 Stelle, PD, la sinistra e la sinistra-sinistra, avrebbero vinto. Ora, non esiste l'algebra, la matematica in politica, quindi non è che tu puoi sommare sempre tutto e pensare che questa, come dire, alchimia algebrica possa funzionare. Però questo ti può far fare un ragionamento politico, che è: c'è una base di elettorato che la destra non avrebbe voglia di votarlo, e probabilmente ce n'è anche di più se consideri l'astensione. io immagino e penso e sono convinto che c'è una forte astensione a sinistra, quindi c'è una base di persone non contente della destra, che non volevano votare la destra e che non vorranno votare la destra, molto grande anche in Lombardia. E questa somma algebrica, che poi appunto non può essere tradotta automaticamente in politica, ma esiste, cioè sono persone fisiche, sono voti, un voto, due voti, cioè c'è una massa di voti che non andranno e non vogliono andare a destra. Ora, capire questa cosa e tradurla in una proposta politica credibile per tutta questa platea di persone che non hanno voglia di votare la destra, ovviamente non è semplice. Il centrosinistra non si sta, secondo me, muovendo benissimo, però al di là di quello che penso io, cioè non si sta muovendo benissimo, stanno ragionando con delle logiche, secondo me, troppo nazionali, ovvero fino ad oggi hanno un po' ragionato delle alleanze lombarde guardando alle alleanze nazionali, quindi il Campolargo, i 5 Stelle, Conte, Di Maio, quelli di Speranza. Invece secondo me bisognerebbe ribaltare il ragionamento e guardarlo dalla Lombardia, cioè in questa regione ci sono delle cose che non funzionano, i trasporti pubblici, lo sanno i pendolari, non funzionano, la sanità non funziona, l'ambiente non è tutelato, il lavoro non è la parte che, di competenza della Lombardia, non è sostenuto dalla regione, non ci sono incentivi per precari, forme di reddito regionali, cioè in questa regione ci sono 5-6 macro temi enormi su cui fare opposizione dura, perché la destra, cioè, l'ha devastata questa regione su questi 5-6 macro temi. Quindi secondo me, cioè, un umile consiglio sarebbe lasciar perdere le logiche nazionali, ribaltare tutto e partire da queste 5, 6, 7, 8, 10 cose che palesemente in Lombardia scontentano tantissime persone, tantissime, perché se tu parli con i pendolari che ogni giorno si muovono sui treni di Trenord, sono incazzati. Se tu parli, cioè chi ha a che fare con la sanità, con la salute, lo sa cosa vuol dire, chi vive nelle case popolari gestite dall'ALER lo sa cosa vuol dire vivere nell'inefficienza, nel disinteresse che questi hanno portato avanti per anni. Quindi concentrandosi su pochi temi, ma unitari, non divisivi, cioè per le regionali non devi parlare di massimi sistemi, devi parlare di come fa schifo questa regione, punto. Se invece tu inizi a parlare di cose nazionali, grande verità anche qui, sarebbe bello avere un governo che si occupa dei problemi delle persone, ma pare essere poco importante, no? Altronde, come stiamo vedendo col governo nazionale che tu prima citavi, Roberto, mentre c'è una guerra in Europa, mentre c'è la crisi climatica, mentre c'è la crisi energetica, giustamente si fa cadere il governo, perché il problema delle persone è tornare a votare per avere un governo che insomma esprima, ci sta giustamente. Ma dai, ma tu non saresti mai contento di nessun governo. Ma quello è vero, che non fosse di dittatura proletaria, lì allora forse sarei contento, io personalmente sarei felice. Ma allora io invece dalla dinamica regionale, che è desolante, passo a un altro scenario desolante, ai noi, ma per cose diverse. Sala ha stravinto le elezioni amministrative dell'anno scorso, destra non pervenuta, con addirittura pure il recupero e i tempi supplementari che gli davano tempo di trovare qualcun altro. Alla fine la destra non è riuscita a presentare nessuno, forse cosa c'era, Albertini anche già rimosso, avevano riciclato Albertini forse per l'amministrazione comunale dell'anno scorso. Milano è una città che ha dei enormi problemi, così come la regione Lombardia, sta diventando una città per ricchi e ricche e insomma che schifa tutto il resto delle persone, che tra l'altro poi la mantengono viva e attiva. Cosa c'è nel futuro di Milano secondo te? Come si dice, le Olimpiadi del 2026, gentrificazioni, stadi nuovi, stadi vecchi che si riescono a fare o forse no, progetti ambientali abbastanza ridicoli, sparsi in giro per la città, cioè la città di Milano verso dove sta andando secondo te? E secondo me sta andando, cioè, proprio fuori Milano, nel senso che un tot di persone stanno prendendo una strada che le porta dritte dritte fuori da questa città, perché sì, come dicevi tu, sta diventando una città esclusiva ed escludente, ed è un, insomma, una tendenza che un po' si alimenta da sola, perché Milano è così, così da sempre, e un po' è coccolata anche dall'amministrazione, perché c'è una gestione pubblica, turistica e manageriale della città che poi ti porta anche ad avere un valore della città costantemente in aumento, quando poi gli aumenti, gli stipendi invece rimangono sempre quelli. Quindi è una città dove appunto in realtà si rischia di far fatica a vivere. E non tanto perché si è poveri o ci si è impoveriti e quindi si è perso il lavoro, si è in un momento di crisi. No, anche se si ha un lavoro, semplicemente i nostri stipendi non sono più adatti a vivere in questa, non sono più sufficienti a vivere discretamente in questa città. Cioè, se il lavoro povero è una questione nazionale, e lo è, a Milano è il doppio di quello che è a livello nazionale come problema. E se non si dota questa città di strumenti pubblici per provare a calmierare questa folle corsa al rialzo di tutto, perché poi la prima cosa che vedi aumentare è la casa, ma conseguentemente acquisiscono valore i quartieri, e quindi il panettiere aumenta di 50 centesimi qualcosa, il ristorante, il menù fisso passa da 8 a 12 euro, insomma, cioè, la dinamica dei prezzi, la dinamica del rialzo, quando i quartieri insomma si brandizzano, acquisiscono nomi diversi, nessun riferimento a Nolo, ovviamente non si sta facendo riferimento al quartiere dove vivi tu, giustamente. Io ho già il trolley e lo zaino pronto per quella via bella da prendere, la via che indicavo prima verso fuori Milano. Ma no, vieni a Milano Sud, che sta così bene, tranne le zanzare, però sta così bene, dai. Le zanzare. Infatti poi se vado a nord torno a Lecco, torno a casa mia, quindi vabbè, non è che proprio avrei voglia di fare questa cosa. Però sì, è così, e quindi servono anche qui degli strumenti pubblici per appunto calmierare il costo della vita, riparlare di diritto dell'abitare, di diritto alla casa in un modo vero, non ideologico, ma che abbia delle ricadute reali, vere, su chi ha bisogno di una casa. E questo significa occuparsi sia delle fasce più poveri, le case popolari ovviamente, ma anche dei giovani e della classe media, cioè di chi ha un lavoro e non ci sta più dentro, o di chi manda i suoi figli a studiare qui a Milano, ma fa una fatica pazzesca perché adesso devi spendere 500 euro per una stanza singola. E poi arriveranno, li dicevi tu, questi progetti, la riqualificazione degli scali ferroviari, le Olimpiadi del 2026, forse un nuovo stadio. Quello che dispiace è vedere che si fa un gran parlare dall'alto di ambiente, di transizione ecologica, di sostenibilità, e purtroppo poi questa cosa materialmente viene sempre costantemente disattesa in una città che invece ha un tremendo bisogno di parlare di qualità della vita, che è appunto avere un costo della vita decente, ma è anche avere una qualità dell'ambiente nel quale vivi migliore. Cioè è una città dove servono alberi, parchi, una migliore distribuzione del traffico delle auto, insomma una maggiore limitazione in un qualche modo, e però queste cose, che sono sempre molto sbandierate, raccontate, poi hanno una ricaduta reale bassissima. Adesso in questi giorni di grande siccità abbiamo visto quell'ordinanza sbagliata che ha fatto il sindaco perché è quella del divieto di innaffiare le piante, i giardini, i parchi, perché Milano è una città con una falda acquifera ricchissima. Infatti la falda acquifera di Milano si può prendere un sacco di acqua, cioè noi non abbiamo un problema di siccità, però è stata fatta un po' così, greenwashing, per far vedere che si faceva qualcosa. Ora, tre settimane dopo, un mese dopo, l'aveva fatta il 25 giugno, cioè si è accorto che gli alberi stanno morendo e sono tornati a bagnare i giardini, gli alberi, le piante, ma perché si può fare? Cioè, quindi bisogna in una maniera intelligente parlare, cioè, di ambiente, a capire qual è il territorio. La provincia di Milano è tutta una provincia con una falda acquifera ricchissima, dove si può utilizzare la prima acqua di falda, quella di 10-20 metri, per fare qualsiasi cosa. Questa cosa va fatta, perché non puoi far morire gli alberi, cioè non sei in una città dove puoi permetterti di far morire degli alberi. E tra l'altro molti di quelli erano gli alberelli che hanno piantato nella mega operazione. I 100.000 alberi, no? Come che era? 16.000? Mi credo 3 milioni di alberi entro il 2030. A me un agronomo che ho intervistato in radio mi ha fatto, insomma, un calcolo, una stima sua, e dice, e lui è uno molto attento a tutte le piantumazioni, ovviamente alla mappa delle piantumazioni di Milano, e diceva che quasi il 60% di quegli alberi piantati, di quegli alberelli piantati, sono morti. Beh, non puoi far morire le piante che hai piantato, cioè è un crimine, non so come dire, in una città come Milano è un crimine, cioè non va bene. È molto più giusto, appunto, accaparrarsi le Olimpiadi, tanto non si sa con che neve le faranno, probabilmente faranno come le Olimpiadi in Cina. È drammatico, tra l'altro coincidenza, sono appena stato in Valle d'Aosta a fare delle interviste a gente di montagna sui cambiamenti climatici, sono andato sul ghiacciaio del Monte Rosa e ho parlato con un po' di glaciologi, ortisti che hanno gli orti in alta quota. E mi raccontavano come poi anche gli impianti di neve artificiale sono devastanti, perché devi utilizzare l'acqua, e loro si sono accorti quest'anno che già a febbraio-marzo, cioè, di acqua ce n'era pochissima, e questi hanno sparato neve fino a Pasqua, cioè fino ad aprile, e non è sostenibile questa cosa, cioè non puoi farlo. Fantastico, fantastico, ringraziamo assolutamente l'amministrazione comunale che ci regala queste cose meravigliose. Yeah. Magari sperimenteranno le prime Olimpiadi invernali senza neve, potrebbe essere. Esatto. Sperimentiamo. Va bene, Alice, facci l'ultima domanda se vuoi, se no potrei che possiamo lasciare libero Roberto, che l'abbiamo interrogato abbastanza. Esatto, ma io chiuderei con un'ultimissima domanda proprio veloce, tornando un po' sul giornalismo, chiudo con un... visto che siamo iperbombardati di notizie oggi, visto che mancano spesso punti di riferimento, soprattutto le persone giovani, per informarsi su quello che succede nel mondo e su quello che succede intorno a noi, come si fa secondo te a essere ascoltatori e ascoltatrici attivi e critici oggi? Cioè, come si fa a selezionare le notizie che valgono? Qual è la chiave? Cioè, di qualche esempio pratico. Intendi dove cercare, come cercare, dove cercare informazioni? Vabbè, si può ascoltare Radio Popolare ogni tanto. E fin qui. Che fa sempre bene, fin qui la risposta è semplice. No, allora, la questione è che... dipende da cosa si cerca. Secondo me ci sono più livelli di diversi livelli di informazione e di ricerca delle informazioni. Faccio degli esempi per spiegarmi, cioè, se sei una persona che fa politica, quindi anche un attivista, hai tutta una serie di canali che fanno riferimento a movimenti e associazioni che ti danno delle informazioni, sono delle informazioni di parte, ma sono utili, perché sono di persone che sono dentro quelle cose che raccontano, cioè gli attivisti sono quella roba lì, e spesso gli attivisti sono fonti per i giornalisti, lo è stato per tantissimi movimenti, l'ultimo, cioè, ricordo tutte le cose che personalmente ho fatto con il movimento No Tav, cioè quelli sono Tutte quelle sono state persone che erano anzitutto fonti di informazioni, perché stavano vivendo quella cosa. Quindi per chi fa politica ci sono una serie di siti di riferimento, e poi c'è l'informazione generalista. Allora, se una persona ha voglia e tempo di leggersi dei quotidiani, è comunque una cosa buona. Certo, bisogna uscire, spendere 2 euro, andare in edicola, comprarli, cioè è veramente una cosa che lo so che non fa nessuno, però leggere un quotidiano, non dico tutti i giorni, però ogni tanto ti permette di avere una serie di informazioni che dalla lettura dei pezzi sui siti dei quotidiani difficilmente hai, anche perché poi ora molti dei siti hanno messo il paywall, quindi sono a pagamento, magari riesci a leggere solo i titoli. Ecco, fermarsi ai titoli, ai sommari, agli occhielli è una cosa devastante, perché i titoli sono un obbrobrio, cioè spesso anche nei quotidiani che possiamo criticare, nei quotidiani mainstream, i titoli sono 10 volte peggio del pezzo. Cioè poi il pezzo comunque può essere un cattivo pezzo, assolutamente, però diciamo che quantomeno è un pezzo che cerca di utilizzare dei criteri giornalistici, e quindi insomma delle informazioni al suo interno le trovi. Se ti fermi ai titoli è drammatico, e spesso vedo che invece è una cosa che si fa soprattutto per commentare quei fatti sui social. È la cosa più semplice, fai lo screenshot del titolo e dici la tua su quella roba. Cioè è troppo semplice così, è troppo semplice far politica così, è troppo semplice pensare di essere informati in quel modo lì. No, cioè ogni tanto bisogna leggerli i pezzi. Roberto, chiedo scusa, ma tu, perché la domanda mi sembra veramente emergenziale, nel senso che per capire come la pensi, secondo te sono di qualità i quotidiani che escono oggi? Perché ormai, cioè, nel senso, da 10 anni faccio militanza e inizio a rendermi conto di questa cosa, cioè di quanto sono poco approfonditi, poco specifici, cioè non fanno assolutamente verifica dei fatti. Quando vedevo che iniziavano a parlare di fatti di movimento in cui c'ero anch'io, e venivano dette cose completamente false. Per cui la mia domanda è: ma veramente l'informazione della carta stampata è di qualità adesso? O, come molte volte mi viene il sospetto, sto leggendo della roba che, scusatemi il francesismo, è merda, cioè è proprio roba senza valore giornalistico, senza un controllo, senza nemmeno un minimo di, non so, di utilizzo di strumenti cognitivi sensati. Cioè, come se uno mi stesse spiegando che la matematica 2 più 2 fa 7. No, non è vero, non fa 7. E cosa mi serve il giorno del genere? Cioè, tu dici che invece ha ancora il suo senso, o magari hai voglia di suggerirci i quotidiani che hanno senso? Perché lo dico proprio, cioè Corriere della Sera, Repubblica, non mi interessa leggerli, perché so che lì dentro troverò cose che non sono vere, non hanno senso. Ma tu sei incazzato perché hanno detto delle cose su cose che hai fatto tu. Vero, vero. Che non corrispondono alla realtà, alla tua realtà, ma immagino che, come dire, posso immaginare, insomma, li leggo anch'io, quindi su certe cose so cosa ti stai magari anche riferendo, ma il punto è che tu non devi leggere un quotidiano per leggere qualcosa, per leggere la verità, e per leggere qualcosa scritto come l'avresti scritto tu, per leggere una cosa che confermi quello che già sai. Cioè, il quotidiano per forza di cose deve anche farti un po' incazzare, e difatti ce ne sono tanti e tu non devi leggerli tutti. Ora, un tempo i quotidiani erano, un tempo intendo dire negli anni, cioè 50, 60, 70, 80, erano degli strumenti importanti, c'erano anche degli strumenti di potere, perché incidevano tanto sulla realtà, incidevano tanto sulla realtà politica, sulla realtà sociale, erano dei luoghi di potere vero. E infatti anche i movimenti reali di quegli anni poi si sono dotati di strumenti propri, perché appunto avevano un ruolo vero, quindi hanno fondato giornali, hanno fondato delle radio. Cioè, io lavoro a Radio Popolare, è nata nel 76 con le radio libere, collaboro con il Manifesto, che è nato perché i fondatori sono stati scacciati dal Partito Comunista e hanno costruito un quotidiano. Ora tu puoi anche incazzarti anche quando leggi pezzi del manifesto che magari appunto di base è comunque parte da posizioni politiche più simili alle tue, ma non devi cercare la verità. I giornali oggi non sono di qualità, è vero. Cioè, questo è un problema, perché stanno perdendo lettori, sì, perché sono fatti male e sono fatti con logiche del Novecento, e invece credo che banalmente potrebbero acquisire qualche lettore in più anche solo raccontando quelle stesse cose diversamente, con un linguaggio un po' più comprensibile, meno da palazzo, meno impolitichese e meno immanicato. Cioè se tornassero ad essere un filo di più degli strumenti laici. Il problema è che la società di oggi richiede sempre di più lo schierarsi, avere delle opinioni forti, e quindi i giornali negli ultimi anni sono diventati ancora di più e ancora più sfacciatamente strumenti di qualcuno. E quindi Repubblica, sai chi sono i suoi editori e i suoi padroni, e sai più o meno a quali logiche risponde. Il Corriere della Sera, idem, ci sono i quotidiani che fanno riferimento alla destra. Però ecco, io sinceramente, se fossi in voi, ad esempio, il Corriere della Sera lo leggerei comunque, anche incazzandomi quando parla male delle cose che faccio io, ma vabbè. Quella poi fa parte della politica. Cioè, se il Corriere della Sera inizia a parlare bene delle cose di Zam, cioè siamo in un altro mondo. Abbiamo vinto e il giorno dopo si assalta, via. E c'è qualcosa che non va. Quindi cioè, lo dovete anche, cioè, il giornale va anche utilizzato per costruire una contronarrazione, ed è quello che hanno sempre fatto i movimenti, cioè da Piazza Fontana in poi. Voglio dire, il Corriere della Sera aveva il mostro in prima pagina nell'edizione seguente a quella del giorno dello scoppio della bomba, cioè c'era già la verità, ma poi c'è stata una controinformazione. Cioè, è ovvio che i giornali sono degli strumenti che continuamente ti faranno incazzare, i giornali mainstream, però dentro un giornale, un giornale è uno strumento intellettuale che si fa ogni giorno e che è ha dentro tante cose. Ora mi imbarazza anche un po' parlarne così bene, perché poi in realtà, cioè, io sono il primo che ogni giorno per lavoro devo leggerli quei giornali, e ogni giorno, cioè, rimango sconvolto dall'imbarazzo nel vedere scritte alcune cose in certi modi. Però sarebbe utile, altrimenti ti devi cercare, per tornare alla domanda iniziale, oggi ci sono i podcast, ci sono dei podcast settoriali, però forse mancano dei podcast che ti danno un'infarinatura su più notizie. Magari trovi un podcast fatto bene sulla cosa X, sulla cosa Y, c'è un buon podcast che ti parla dei cambiamenti climatici, un buon podcast che ti fa, non so, però vanno a temi, perché il podcast oggi sono per lo più tematici. E mi rendo conto che è complicato informarsi oggi, però quello che posso, non so, forse davvero un suggerimento banale è quello di mettere insieme più fonti, ma di non fermarsi ai titoli, di non fermarsi ai riassunti, di non fermarsi a quello che ha scritto il tuo amico su Facebook su quel fatto, o su Instagram su quella roba. Cioè, se ti interessa una roba, fattela una piccola ricerca, ci perdi mezz'ora, però mettendo assieme tre o quattro cose da tre o quattro fonti diverse, poi insomma, qualcosa porti a casa. C'è bisogno di approfondimento. Forse, ecco, qui la sfida del giornalismo è creare nuovi spazi di approfondimento che oggi non esistono. Quella secondo me è la cosa da fare, la cosa che forse anch'io nei prossimi anni vorrei fare, e prendermi il tempo di creare dei luoghi di informazione approfonditi, ma non pesanti, ma che utili, ecco, che possano essere utili. Fantastico, direi veramente sublime. Chiedo scusa se sono stato così a gamba tesa, ma ci tenevo. E grazie mille Roberto. Hai fatto benissimo, perché poi è la cosa vera. Cioè, ovviamente tu apri Repubblica, il Corriere, ti incazzi. Però se vuoi essere aggiornato su quello che succede, anche perché, cioè, tu fai politica, quindi come dire, tra virgolette, quasi non puoi permetterti di non seguire quello che dice il tuo avversario. Per cui se vuoi stare al passo di al passo delle cose che succedono, ti tocca leggere anche cose che ti fanno incazzare. Ci vuole la rassegna stampa delle 7:30, no, quella poco dopo, delle 8:15 di Radio Popolare. Mi pare che si chiami Radio Sveglia adesso in estate. Adesso sì, le rassegne stampa sono utili, ma infatti, vabbè, in Italia adesso il podcast più ascoltato è la rassegna stampa che fa Francesco Costa, che si chiama Morning, che ha un'impostazione da Francesco Costa, quindi molto simile alle cose che fa il Post, per cui magari ti incazzi perché forse è un po' troppo liberista per i tuoi gusti, però la sua non è una lettura vera dei giornali, è una lettura critica. C'è Pagina 3 di Radio 3 anche, che fanno una bella lettura dei giornali. Però insomma, poi uno durante la giornata, cioè, il punto è, quando ti interessa qualcosa scanala un po' e non fermarti i titoli. Va bene Alice, penso che ci siamo. Assolutamente sì, grazie mille davvero, è stato molto interessante. Grazie mille Roberto. Allora noi mettiamo la sigla, così concludiamo in bellezza per una volta senza fare pasticci, e salutiamo Roberto in privato, e per tutti gli altri ci vedremo a settembre con altre puntate di Free Speech. Abbiamo altri giornalisti e altre giornaliste, soprattutto perché per ora siamo stati un po' di parte, sì. Due su due maschi non va tanto bene, già una di meno tira le orecchie, ma comunque recupereremo, perché in realtà mi sa che le prossime sono quasi tutte donne giornaliste, per cui fantastico. Le ascolterò anch'io. Buona serata a tutti e tutte, e basta. Ciao.